Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Oilà, se correte fermatevi, puntata dedicata a chi va di corsa, per dovere o per piacere. Se state correndo da stamattina, fate una piccola pausa, ve la meritate. Sgranchitevi le gambe e portate per qualche minuto la vostra mente altrove. Basta veramente poco e vi sentirete nuovi, o almeno più carichi. Provare per credere, ma fatelo. Anzi, facciamolo subito, proviamoci. Qua in studio con me abbiamo Tite Togni, insegnante di yoga, certificata Iyengar. Ciao Tite. Namaskar a tutti. Tite, esercizio dedicato a chi corre per dovere, preso tra mille pensieri e difficoltà. Parola d'ordine: rallentare. E ne aggiungo un'altra: stare. Stare nel respiro, ne ho aggiunto un'altra ancora. La posizione che più, il settore di posizione che più aiuta a fermarsi e ad ascoltare il respiro, cioè ascoltare il ritmo più fisiologico che esista, è il settore delle posizioni capovolte. Ce ne sono da circo, ce ne sono bellissime, però tutti coloro che devono ancora iniziare dicono: ma io cosa posso fare? Lì dove siete, probabilmente in ufficio seduti, potete già fare moltissimo in pochi istanti, in pochi respiri. Per esempio, l'importante è capovolgere il busto e portare il cuore e portare la testa più bassa del cuore, sì, in modo che si rallenta automaticamente il respiro. E questo possiamo farlo iniziando proprio da seduti. Quindi siamo seduti, divarichiamo le gambe. Con le cosce dalle ginocchia ai glutei ben disposte sulla seggiola, i piedi separati come il bacino, ben piantati a terra, e possibilmente rimanendo seduti proprio fino ai glutei, lasciarsi colare a picco con il busto che cade e che va sempre più giù con la testa pesante tra le gambe. Guardare con gli occhi diritto davanti a voi, e cioè sul retro della seggiola, e andare magari respirando anche andare a prendere il traversino dietro della seggiola, afferrarlo e respirando sentire come il corpo, come il busto, come la schiena si stendono, si distendono, e poi piano inspirando riportarsi eretti. Provateci, la descrizione di Tite è molto chiara, ma come sempre in chiusura di trasmissione Laura Vanossi ci filmerà e io, insieme, guidata da Tite, vi farò vedere la posizione. Ma se correte invece per piacere, per passione, complimenti a voi, perché state facendo un ottimo investimento che, secondo i dati di una ricerca, vi frutterà circa 6 anni di vita. Bastano 2 ore di corsa a settimana per guadagnare 6 anni di vita. Il calcolo arriva dai ricercatori della University Hospital di Copenaghen, che hanno portato prove a sostegno della relazione positiva tra jogging e speranza di vita. Lo studio ha esaminato circa 2000 persone e per un arco di tempo di 35 anni. Tra queste, quelle che correvano per 2 ore a settimana mostravano una riduzione della mortalità del 44%. Gli uomini vincono sulle donne. Rispettivamente, i runners maschi vivono 6,2 anni in più della media, le signore sportive 5,6 anni. I benefici sono molteplici, dalla regolarizzazione dell'attività cardiaca alla diminuzione della sensibilità all'insulina. Unica raccomandazione: non esagerare. I latini insegnano in medio stat virtus. Non è mai troppo tardi per iniziare a correre. Per chi già lo fa, abbiamo oggi una straordinaria opportunità. 3 grandi esperti che la corsa ce l'hanno nel DNA, perché a fianco di Tite Togni scendono in campo per motivare i sedentari e allenare i maratoneti Orlando Pizzolato. Orlando, ciao! Buongiorno. Grande maratoneta e direttore della rivista Correre, a cui si aggiunge il professor Pietro Trabucchi. Ciao Pietro. Ciao, ciao a tutti. Psicologo. Ciao Orlando e Tite. Ciao. Buongiorno, ciao. Psicologo dello sport, professore all'Università di Verona in psicologia dello sport, autore di numerosi libri di cui abbiamo avuto modo di parlare, tra cui ricordo Perseverare Umano, Corbacci Editore. Respiro, tecnica e mente. Ci vuole tutto questo per correre, forse ancora qualcosa in più, ma lo scopriremo correndo, strada facendo. Orlando, noi siamo nati per correre perché abbiamo tutto l'occorrente, ma in che percentuale nella corsa contano le doti naturali e quanti invece conta l'allenamento? Contano tutte e due, i genitori fanno molto, vale a dire le doti genetiche si fanno sentire soprattutto per i corridori, chiamiamoli professionisti. Seguendo i corridori in genere da oltre 20 anni, mi sono fatto un po' una statistica, gli amatori progrediscono da zero di un circa un 15-20%, i corridori invece portati o nati per correre arrivano anche al 25%, quindi c'è un po' di differenza data appunto dalla genetica. Certo, e c'è anche una struttura fisica che aiuta? Sì, vediamo i keniani o gli africani in genere, poco peso è vitale, fondamentale, perché vuol dire spendere meno energie. Poi la parte fisica è quella che vediamo ed è quella che ci colpisce di più. Quello che conta nella corsa è senz'altro, noi lo chiamiamo il motore, vale a dire il cuore che pompa sangue e i muscoli in grado di utilizzare al meglio l'ossigeno. Il movimento porta a ottimizzare queste prestazioni. 800 24 00 24, se volete intervenire potete seguirci anche su Facebook e su Twitter. Ma Pietro, la maratona penso che sia molto più di una gara, perché dai racconti di amici che maratonetti ho capito che ci si misura un po' con se stessi, con i propri limiti, con le proprie paure, si deve fare i conti con la fatica che si avverte a livello fisico, ma che si sopporta e si affronta a livello mentale. Insomma, per correre ci vuole testa, intesa come motivazione, impegno a resistere, perché il fisico, anche se allenato, declina. Invece la forza mentale, come scrivi tu nei tuoi libri, continua a crescere sino all'ultimo. Questo rende un po' lo sport un'esperienza straordinaria che serve anche nella vita. Sì, assolutamente, cioè la rende un'esperienza interessante per tutti, perché sono d'accordo con quello che dice Orlando. Il problema è che poi contano anche quelli che vengono chiamati i fattori mentali, il fattore psicologico, no? Cioè noi abbiamo, magari tutti conosciamo un sacco di persone che avrebbero il fisico adatto per fare delle buone prestazioni nella corsa, ma poi alla fine o non riescono a trovare la motivazione, la forza per allenarsi, no? Oppure in gara, questo è tipico, no? Le persone che magari hanno così dei tratti di ansia abbastanza forti fanno vedere delle cose straordinarie in allenamento e poi invece in gara non riescono mai a dare quello che sta nelle loro potenzialità. E quindi io credo che un aspetto estremamente interessante della corsa, anche per chi corre proprio così, senza delle velleità professionali, è il fatto che insegna una disciplina, insegna in qualche modo un approccio alla vita che è differente e che consente anche una crescita psicologica, cioè sì, la capacità di non mollare di fronte a un obiettivo. Quello che oggi è di moda dire la resilienza, la capacità di resistere alle difficoltà, e questo credo che sia una cosa estremamente importante per tutti. Tite, il respiro ancora una volta mette in equilibrio mente e corpo, parla ai muscoli e parla al cervello. Sì, è un onore mettere insieme questi due grandi apporti, il corpo citato da Orlando e la mente citata da Tu da sei Pietro. In mezzo. Sono in mezzo, perché lo yoga sta sempre in mezzo, perché yoga significa unione innanzitutto tra mente e corpo. E quindi dov'è questa unione? È nel respiro, cioè nella capacità, alla fine perché si pratica lo yoga, no? E perché per lo yoga come pratica fisica sul corpo può essere utile per la mente? Perché allena a soffermarsi sul presente, cioè ad ascoltare il respiro, quindi ad ascoltare anche, per esempio, la fatica e non a farsi prendere dalla fatica. Senti, perché lo yoga può essere utile anche e soprattutto in modo particolare ai runner? Appunto, per essere nel presente, perché un runner quando sta correndo è attraversato da mille pensieri, perché la mente non può mai fermarsi. Questa è la grande scoperta che hanno fatto migliaia d'anni fa coloro che si dedicavano appunto alla ricerca di yoga. Il problema qual è? La mente non si può fermare, la mente corre, l'unica possibilità che abbiamo è quella di guardarla dall'esterno, imparare, allenarsi, perché non lo si può assolutamente improvvisare. 800 24 00 24, con i nostri esperti oggi parleremo di teoria, siete voi a suggerirci domande sulla pratica, molti di voi mi stanno già scrivendo al 349 238 6666, complimentandosi per il trio che mettiamo a disposizione, confermano tutti mente, corpo e cervello, ma naturalmente aspettiamo le vostre domande, i vostri dubbi, molti di voi si stanno preparando, mancano 76 ore alla maratona di Firenze, una maratona internazionale che è giunta alla sua 29esima edizione, si terrà domenica prossima, 25 novembre, Radio 24, la radio ufficiale, parteciperà anche il nostro Giuseppe Cruciani con il pettorale 24, naturalmente. A proposito di allenamento, Orlando, per testare le conoscenze dei nostri runner, che sono tanti, abbiamo preso dal tuo sito due domandine, andiamo a sentirle. Le salite più adatte per migliorare la forza muscolare specifica sono quelle brevi 50-100 metri, medie 200-500 metri, lunghe 5-10 km. Ma ne abbiamo anche una seconda domandina. Per migliorare il meccanismo della resistenza alla potenza sono ottimali le ripetute medie 1 km, la corsa media, la corsa lunga lenta. 800 24 0024 se volete partecipare, perseverate per ricevere a casa Perseverare Umano, che prendiamo dalla libreria di Essere Benessere, un libro scritto da Pietro Trabucchi che è in linea con noi. Se vi state allenando, quindi questo è il momento per sapere se e quando e cosa potete fare per evitare ad esempio degli acciacchi che spesso bloccano. E questa domanda la passa ad Orlando, i nostri maratoneti. Dolori, tensioni, rigidità? Tante, spesso perché i corridori vogliono andare oltre i propri limiti. Questo è insito, perché un po' la maratona è anche una sfida, no? Contro se stessi, contro questa distanza che ci pone dei limiti. Si cerca di mettere in campo più di quello che abbiamo a volte, andando, come dire, mettendo davanti la testa al corpo, sforzandosi, e si rischia spesso di fare troppo, anche perché il corridore è ipermotivato, altrimenti non affronterebbe, no, queste lunghe distanze, preferirebbe correre in maniera morbida, diciamo, per la salute. Chi invece affronta le maratone di solito mette davanti il tempo, il chilometraggio, e si rischia di perdere il contatto con se stessi e di sottovalutare alcune problematiche che inevitabilmente capitano, perché la maratona è una gara dove si va all'esaurimento e quindi bisogna fare attenzione a non eccedere durante la preparazione soprattutto. Che è un rischio che molti maratoneti corrono. Pietro, come mai? La passione in qualche modo fa perdere la testa e fa perdere la consapevolezza dei limiti? Sì, questo è vero, sono d'accordo, cioè questo può capitare. È anche vero che forse chi fa delle grandi prestazioni comunque per forza deve confrontarsi con i suoi limiti, cioè alla fine chi così cade un po' in un senso di onnipotenza e dice che i limiti non esistono, e in realtà poi non combina niente. Secondo me i grandi sono proprio quelli che partono dai propri limiti e lavorano per limarli. Lucia ci chiama da Milano, buongiorno, benvenuta. Buongiorno signora, sono Lucia e non sono maratoneta. Ma allora, si può sempre iniziare a correre, Lucia? Sì, esatto, poco direi. Allora, il mio problema è questo, io ho già 54 anni, ho smesso di fumare. Brava. Grazie, sono molto orgogliosa di questo, però ovviamente ho messo su anche 4 kg. Questi 4 kg, anche con una dieta fai da te non esagerata, non riesco a mandarli giù. Volevo, oltre a buttare giù i 4 kg correndo, tenermi anche un attimino in forma fisica, sì, ma senza farmi del male, nel senso che data l'età non ho mai fatto sport, volevo incominciare piano piano. Come incomincio? Cosa devo fare? Si sta già fregando le mani Orlando Pizzolato, perché Lucia forse manifesta il desiderio di iniziare a correre, e questo è già assolutamente un buon inizio. Sì, sì. Ha già fatto il grande passo, che è quello di mettere via le sigarette, perché si inizia con questo ed è un segno di grande forza di volontà. Il passare a correre può essere da una parte impegnativo, perché non è stimolante come altri sport dove c'è il punteggio, c'è la gratificazione di un qualcosa di tangibile. Nella corsa, in chi affronta la corsa deve superare il primo mese, di solito si dice, dove purtroppo si semina e si raccoglie poco, vale a dire si fa tanta fatica, però piano piano si fanno strada poi le endorfine e la gratificazione di vedere che si riesce a muovere i primi passi, che vuol dire inizialmente si va a camminare. Dal camminare si possono fare alcune centinaia di metri, alcune decine di secondi di corsa, e si scopre che migliorando l'efficienza fisica questi tratti di corsa si possono sia allungare e si percepiscono essere meno impegnativi rispetto a quando si era partiti. L'importante è iniziare. Per esempio, si può camminare su un intervallo di 5 minuti, camminare per 4 e farne uno di corsa, e quando si corre si va a un passo molto agevole, non bisogna preoccuparsi né della distanza che si percorre né di che ritmo si tiene, si tratta semplicemente a volte di dire parto da questo albero e cerco di arrivare a quella panchina là in fondo correndo piano, poi per altri 4 minuti si cammina, si cerca di ripetere questa serie, questa sequenza per 3, 4, 5 volte, e io vedo alla mattina quando vado a correre presto molte persone che vanno a camminare e persone di varie età, e lo fanno essenzialmente per la salute. Qualche volta iniziano a correre ed è curioso vederli che lo fanno in discesa, perché è più facile. È più facile, per cui diciamo a Lucia, buttati. Brava. Buttati con la testa, con un po' di entusiasmo, gradualità, e speriamo che Lucia tra qualche mese ci scriva dicendo mi sono appassionata, le endorfine mi hanno preso, catturato. Quel giorno, non so proprio perché, decisi di andare a correre un po'. Perciò corsi fino alla fine della strada. E una volta lì, pensai di correre fino alla fine della città. Il presidente Carter, per un collasso, è svenuto tra le braccia degli agenti di... E una volta lì, pensai di correre attraverso la contea di Greenbow. Poi mi dissi, visto che sono arrivato fino a qui, tanto vale correre attraverso il bellissimo stato dell'Alabama. E così feci. Non riuscivano a credere che uno poteva correre tanto senza una ragione particolare. Ma perché fa questo? Avevo voglia di correre! Avevo voglia di correre! E se state correndo, se vi state allenando per una maratona, restate con noi. 800 24 00 24, trucchi, consigli, raccomandazioni per chi va di corsa per passione, ma anche consigli per chi va di corsa per necessità. Noi ci sentiamo subito dopo i mercati e il meteo. Essere e benessere. Soldato, tu che sei un volontario. Beh... Corri ad Atene e di che la battaglia di Maratona è vinta. Scusi, ma sono 42 chilometri. E 195 metri. Ah, beh, e allora è differente. Vai. Vado. Acqua. Acqua. Acqua. Acqua. Manca 20. Meno 10. Meno 3. Meno 4, meno 1, eccomi qua. Parla! Abbia pietà un momento. Ecco, porto notizie da Maratona. Che è successo? Dove? A Maratona, forza! Oh, dunque, ecco, non me lo ricordo più. Parla, chiedono a Fantozzi, ma questa è una buona indicazione, Tite, perché se si riesce a parlare mentre si corre vuol dire che l'andatura è quella giusta, o sbaglio? Sì, beh, Orlando può dire molto di più, però una minima lezioncina, una minima regola è proprio questa, soprattutto per chi inizia a correre, vero Orlando? Il grande misuratore è il poter parlare. Disporre di ossigeno, di aria per di ossigeno per parlare vuol dire che l'organismo ha margine, cioè non sta usando tutto il suo potenziale, quindi è un modo, oltre che di correre in compagnia e far passare meglio il tempo, è un modo per controllare gli sforzi, perché finché c'è possibilità appunto di respirare e parlare, l'intensità non è così elevata e non si rischia quindi di sovraccaricare l'organismo. Pietro, vorrei entrare con te nella testa del maratoneta alla vigilia della gara. Quali sono i pensieri che lo aiutano e quali invece quelli che lo zavorrano? Ma io credo che sia un po' fuorviante parlare di pensieri che aiutano e pensieri che zavorrano, no? Nel senso che, lo diceva anche prima Tite, in realtà noi non controlliamo l'emergere dei pensieri, no? Quindi è naturale che quando uno gli manca pochi giorni alla gara o poche ore, per forza nella sua testa appaiono dei pensieri anche un po' dubitativi, no? Ce la farò, riuscirò ad arrivare in fondo, con che tempo, così, soffrirò, farò fatica. Credo che il segreto sia quello di non aderire a questi pensieri, cioè noi siamo abituati a reagire ai pensieri, quindi magari se pensiamo qualcosa di brutto o qualcosa che ci crea ansia, veramente poi ci focalizziamo su questo pensiero, no? E continuiamo dentro, questo pensiero continua a lavorare dentro di noi, no? Allora, secondo me uno deve accettare, è normale che prima della gara anche ogni tanto gli venga in mente che magari le cose possono andare anche male, ma non deve soffermarsi su quello, deve dire come dicono i meditatori, no? Cioè prendo atto che c'è questo pensiero, ma non mi soffermo, sennò diventa qualcosa che comincia a agire e non agisce solo in testa, ma... La capacità di visione del testimone, vero Pietro? Sì, esatto, perché come ci insegnano appunto quello che dice Tite, no? Gli orientali lo sanno da... Adesso la scienza occidentale l'ha scoperto, l'ha spiegato, ma loro lo sapevano da tanto prima di noi. I pensieri non sono solo in realtà qualcosa di immateriale che compare nella nostra testa come attività così superflua del cervello, ma sono in realtà degli stati che producono anche delle modificazioni nel corpo. Quindi se io comincio veramente a preoccuparmi di come andrà la mia prestazione, alla fine paradossalmente la mia prestazione ne risente, perché io per esempio attivo delle Tutti. Risposte ormonali che per esempio cominciano già a bruciare, cioè a farmi consumare glicogeno, quindi questo Tite, quindi, Orlando quando... può dire la sua, è lo zucchero, Orla... lo zucchero nobile della corsa, la benzina nobile. Orlando. È vero, quello che diceva Pietro è fondamentale. Spesso è chiaro che quando si affronta una gara c'è il timore, ci sono preoccupazioni, però con la preparazione si dovrebbe essere tranquilli per quello che si è fatto. E Pietro diceva un'altra cosa estremamente importante, prima, che è stata molto risolutiva nella mia carriera: sapere il proprio limite. So che oltre quel limite non posso andare, per cui non commetterò mai l'errore di andare in sconfinare, perché poi commetterei un errore e pagherei caro quel prezzo lì. Allora bisogna essere tranquilli e forti di questa consapevolezza. Gli atleti che devono competere e vincere una gara, è chiaro che devono confrontarsi con l'avversario, e l'avversario ti mette in difficoltà, però anche l'avversario non ha tanto margine, e sapere fino a che punto posso spingermi mi consente di controllare la gara. Purtroppo con gli amatori è un po' diverso, perché gli manca un potenziale fisico per cui possono gestire tutte le energie che vogliono, e a volte fanno due errori: sottovalutano la distanza di corsa, si sopravvalutano pensando di essere un po' come Fantozzi, nel senso che vanno oltre la propria possibilità. Poi in maratona soprattutto, ma anche nelle gare lunghe, ma la maratona è fondamentale, ti pone un conto che quando arriva è estremamente salato, soprattutto se si sono commessi degli errori, e poi quello che si paga è enorme, ha un interesse che fa vivere delle sensazioni negative, cioè quello della crisi del maratoneta, per cui ecco, arrivare in fondo è estremamente intorno al trentesimo chilometro c'è lo spauracchio di tutti i maratoneti, che è il muro. Io chiedo a Pietro, a Tite, Orlando, perché questa immagine del muro, anche a me che non corro, per me è sempre stata un'immagine che mi ha quasi fatto paura, e si potrebbe, Tite, vederla invece che come un muro, come una duna, come una collinetta, non aiuterebbe di più? Proprio mi rifaccio a quello che raccontava Pietro. Bellissima immagine, è la tua, è proprio tua, ma proprio è da adottare. La parola muro mette subito in campo ormoni negativi, invece la parola cunetta è proprio la realtà. Mettiamocela via che una crisi almeno durante una maratona, e non ne parliamo poi negli ultra, nelle corse in natura, più lunga ancora, una crisi almeno si verifica. L'importante è A, saperlo, e B, riuscire a trovare qualcosa di fisico, in modo che estendendo il corpo estendi la mente, cioè stretchi, questo muro diventa un ponticello anziché una cunetta, anziché essere una cosa verticale che ti ferma. Sono sicura che è pronto, è proprio sul pezzo il nostro Giuseppe Cruciani, che è in linea con noi, correrà alla Maratona di Firenze. Giuseppe? Sì, se sono in grado, perché ho perso la voce, ho un piccolo problema alla gola, vediamo. Allora, Giuseppe, hai tre grandi esperti a cui io ti affido. Ecco, per cui puoi contare sul nostro tifo e di tutti i tuoi ascoltatori, sul mio che porto bisogno. Buono, non ci sarà bisogno, ma aiuta, e poi sulle competenze di Orlando Pizzolato, Pietro Trabucchi e Tite Togni. Hai qualcosa di chiedere? No, chiedo subito a Orlando. Orlando, ciao innanzitutto. Ciao. Ci siamo conosciuti l'anno scorso, prima della Maratona di Roma. Se uno sta male nei giorni precedenti, che deve fare? Niente, rassegnarsi. Estremamente prudenza, perché giustamente l'organismo non è nella condizione migliore per affrontare uno sforzo. Spero che il tuo problema sia solo correlato alla gola, però alla voce, quindi mi dispiace per il tuo lavoro come professionista e anche come maratoneta. In questo caso bisogna essere a riguardarsi, appunto mancano poche ore alla gara, l'allenamento è stato fatto, quindi da quel punto di vista lì dovresti essere tranquillo. Purtroppo sembra che il clima non sia del ottimale, forse le previsioni danno una giornata piovosa e questo potrebbe limitarti di più. Il riguardo è proprio quello queste poche ore di non fare nessun altro allenamento per evitare appunto di peggiorare la situazione e cercare con qualche farmaco di ridurre questo problema. No, ma infatti sono più preoccupato in questo momento, Nicoletta, per il lavoro più che per la gara. Mancano 3-4 giorni. E ce la farai, poi io faccio il tifo per te, porto speriamo. Buono. Ciao Giuseppe. Ma poi importante, bravo. Importante cos'è? Non strafare. Io il mio obiettivo, come sa Orlando, come ho detto anche più volte, è quello di ed è il mio consiglio per tutti, un po' di non pretendere troppo dal proprio corpo, sapere esattamente quanto uno può dare e cercare di arrivare nelle migliori condizioni possibili per passare una bella giornata e per vivere la città al meglio. Ma bravo Giuseppe, è un consiglio di Giuseppe molto Cruciani, yogico. Molto yogico, Tite approva assolutamente, grazie a Giuseppe, in stile benessere, grazie mille. Allora, io voglio rilanciare i nostri quizzettoni, perché me lo state chiedendo, li abbiamo presi naturalmente dal sito di Orlando e servono un po' per testare le conoscenze dei nostri runner all'ascolto a proposito di allenamento. Andiamo a risentirli. Le salite più adatte per migliorare la forza muscolare specifica sono quelle brevi 50-100 metri, medie 200-500 metri, lunghe 5-10 km. Ma ce n'è un'altra! Per migliorare il meccanismo della resistenza alla potenza sono ottimali le ripetute medie 1 km, la corsa media, la corsa lunga lenta. E a proposito di allenamento, voglio leggervi un messaggio che è arrivato da Twitter. Marco, il motore è importante, ma l'allenamento fa miracoli e poi forse la cosa giusta è tenere allenate le doti naturali. Andiamo a Massimo, che ci chiama da Milano, e poi a Michele da Rimini. Buongiorno Massimo, benvenuto. Buongiorno a tutti e un ringraziamento a Orlando per i suoi consigli che leggo ogni mese su correre i suoi libri che hanno accompagnato la mia avventura nella corsa. Allora Massimo, intanto dopo i ringraziamenti a Orlando si fermi lì, andiamo a sentire che cosa succede sulle strade e sulle autostrade, poi ritorniamo con Massimo da Milano. A tra poco. Essere e benessere. Massimo, eccoci qui, rapidamente la domanda. Sì, perfetto. Volevo chiedere ad Orlando, io corro dal 2007, dall'anno scorso ho cominciato a fare triathlon e mi sono messo in testa sulla disciplina della corsa di modificare la tecnica, utilizzando più la spinta dell'avampiede, procurandomi così invece due belle tendiniti. Mi domandavo, è proprio vero allora, ognuno corre come sa, insomma? Sì, di solito la tecnica che si mette in atto nella corsa è quella relativa alla propria struttura fisica e muscolare. Si possono però fare delle modifiche, queste modifiche possono essere orientate, come dicevi tu, al discorso di usare per esempio di più i pace rispetto alle cosce, una muscolatura che invece si usa di più in bicicletta, però bisogna farlo in maniera graduale e credo che la scelta tua sia corretta, però bisogna arrivarci per gradi, lavorandoci inizialmente con lavoro in palestra di potenziamento e poi metterlo in pratica anche in allenamento. Credo, consiglio di insistere, perché però con gradualità, perché vedrai che migliorerà. Orlando, ci chiedevamo con Tite, discutevamo proprio a livello muscolare ma anche a livello di allenamento, ci sono gli scattisti e ci sono i fondisti. Sì, anche qui si nasce, nel senso che si predilige una specialità, una disciplina che è quella dove riusciamo meglio, inevitabilmente, però tolte queste situazioni naturali, la corsa è lo sport più facile in tutti i sensi, è più economico anche in termini di, non economico di spesa di soldi, ma in termini di tempo, dove tutti la possono fare la corsa. È chiaro che dopo bisogna porsi dei traguardi e degli obiettivi, ma è estremamente democratica, mi viene da dire, chiunque ha voglia di faticare un po', perché nella corsa la fatica è insita, però tirare fuori la gratificazione della fatica, e tutti, veramente tutti, possono farlo a qualsiasi età, con, come dicevate sempre voi in trasmissione, con molta gradualità, con tranquillità, senza poi chissà arrivare chissà quali traguardi. Pietro, perché quando eravamo piccoli ci dicevano non occorre vincere, basta partecipare, ma il piacere di correre una maratona è proprio nel farla, nel superare i propri limiti, nel saper gestire la fatica, indipendentemente dal tempo. Sì, io credo che uno dei più grandi piaceri sottovalutati negli esseri umani è quello che viene chiamato il piacere della competenza, cioè di farcela, di vincere contro se stessi in qualche modo, no? E quindi è vero che noi siamo anche animali competitivi, no? Perché è un falso buonismo dire no, la competizione è solo indotta così dalla cultura, no? Uno guarda dei bambini che cominciano a fare attività sportiva, immediatamente fanno la gara, quindi c'è un livello competitivo in noi, però c'è un piacere profondo che è quello di riuscire in qualche modo a vincere, ad apprendere delle nuove capacità, a controllare le avversità, quindi fare una maratona vuol dire, se uno la corre per fare il proprio personale, no? Quindi il tempo migliore che può fare sulla distanza, è chiaro che va incontro ad affrontare la fatica, passerà la crisi, magari sentirà del dolore, e quindi quando uno arriva in fondo è veramente, è veramente gratificato, se no uno all'arrivo della maratona vede un sacco di gente che magari arriva, certo, malconcia, e tutti sorridono, ridono, piangono di gioia, dice ma questo è il raduno mondiale dei masochisti. No, non è il raduno mondiale dei masochisti, che noi quando riusciamo a vincere la sfida con noi stessi, questa cosa non solo ci fa crescere, ma poi ce la portiamo anche dentro, in tanti altri campi, certo, della vita. È importante, immagino, e su questo poi chiederemo a Tita e ai nostri esperti di aiutarci, anche il dopo maratona, perché il nostro corpo, la nostra testa è impegnata veramente in uno sforzo che mette sotto pressione muscoli, allenamento, tempi, per cui vorrei chiedere a Tita già di occuparsi dei nostri ascoltatori che magari parteciperanno alla maratona di Firenze con qualche consiglio. Ma oggi abbiamo iniziato la puntata dicendo si corre per dovere, perché tutti noi siamo sempre di corsa tra mille impegni, per piacere e per passione, con grande soddisfazione per alcuni, proprio merito di queste famose endorfine che regalano una sensazione di benessere, ma si corre anche per solidarietà. In linea con noi abbiamo Marco Rampi di Medici con l'Africa Quam Varese. Ciao Marco. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Torna un po' lontano la tua voce, perché tu in questo momento ti trovi in Etiopia, dove il 25, quando da noi si correrà la maratona di Firenze, si correrà una maratona che è la più partecipata d'Africa, con oltre 40.000 persone. Esatto, domenica prossima si corre qui a Addis Abeba, capitale dell'Etiopia, la Great Ethiopian Run, un grande evento, una grande manifestazione. Pensate che oltre i 40.000 partecipanti, il sabato, quindi il giorno prima di questa gara, ci saranno oltre 4.000 bambini anche sotto i 5 anni che correranno una gara all'interno di questo evento. voi all'interno, cioè una maratona, dicevo, per solidarietà, perché c'è un progetto molto bello che vorrei che tu raccontassi ai nostri ascoltatori. Sì, noi pensiamo che al di là dell'aspetto atletico e salutistico del correre, ci sia anche un qualcosa che fa, passami il termine Nicoletta, ancora più bene, che correre per qualcosa in cui crediamo, ed in primis per il diritto alla salute. L'Etiopia è un paese dove la mortalità materno-infantile è tra le più alte al mondo, dove la disabilità è uno stigma, e noi vogliamo proprio con questa nostra partecipazione correre per questo obiettivo, per dare uno scopo ulteriore alla partecipazione a questa manifestazione, proprio per ribadire con forza questo diritto alla salute. Per noi questo è un progetto che rientra in un progetto più grande, Run for Africa, Run with Africa, così lo abbiamo voluto chiamare, che ci vede quest'oggi partecipare qui in Etiopia, ma che avrà altre tappe nel proseguo dei prossimi mesi. Grazie a Marco Rampi, buona giornata. Buona giornata a voi e continuiamo a correre insieme, grazie. Grazie, noi continuiamo a correre, ma la trasmissione è terminata, quindi saluto Orlando Pizzolato. Grazie. Ciao. Orlando, per i consigli, Pietro Trabucchi, Tite Togni. Grazie Pietro. Tite Togni, che invece resta con noi perché prepareremo degli esercizi. Non mi far fare degli esercizi troppo difficili, che sembra un gatto impagliato. Noi ci trasferiamo su Facebook perché non abbiamo avuto tempo di dare voce alle vostre risposte sui quizzettoni di Orlando, ma noi ci trasferiamo su Facebook e vediamo. Correte allora, a domani.